Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Calo dell'8,3% del PIL quest'anno, così l'Istat stima l'impatto del Covid sull'Italia, ripresa parziale l'anno prossimo del 4%. Governo verso gli stati generali dell'economia, Zingaretti, nessun problema con Conte, ma serve un salto di qualità. Ultimo giorno di scuola, docenti in sciopero chiedono certezza sulla stabilizzazione dei precari. Mafia e riciclaggio nelle agenzie di scommesse sportive, 8 arresti a Palermo. Debutto in 4 regioni italiane per Immuni, la app già scaricata da 2 milioni di italiani. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Si apre dunque una settimana che ci porterà agli stati generali dell'economia proposti dal governo per raccogliere idee sul rilancio e anche su come spendere gli ingenti fondi europei in arrivo. Sempre oggi però è l'ultimo giorno di scuola, senza ancora date e modalità certe per la riapertura a settembre. Di questo parleremo più avanti. Intanto proprio oggi l'Istat certifica il crollo del PIL italiano, meno 8,3% quest'anno e una parziale ripresa l'anno prossimo. Sentiamo. Uno shock senza precedenti, con una caduta del PIL dell'8,3% nel 2020 e una parziale ripresa nel 2021, è quanto rileva l'Istat nelle prospettive per l'economia italiana, sottolineando l'impatto profondo dell'epidemia e dei provvedimenti di contenimento adottati dal governo. Quest'anno i consumi delle famiglie scenderanno di quasi il 9%, con un crollo di investimenti ed export. La disoccupazione calerà di oltre il 9% per effetto dell'incremento degli inattivi. Nei primi 4 mesi dell'anno, infatti, 500.000 persone hanno smesso di cercare lavoro, soprattutto tra le donne. Con la riapertura delle attività a maggio ci sono i primi segnali di ripresa. Il PIL, dopo una flessione nel secondo semestre, è previsto in aumento, spiega l'Istituto di Statistica. Dati che confermano le previsioni del governo e indicano una possibile ripresa nel terzo trimestre, il commento del ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dicevamo, la politica inizia la discussione su come investire i fondi economici promessi dall'Europa, se ne parlerà agli stati generali dell'economia, mentre il segretario del Partito Democratico Zingaretti rilancia l'alleanza con Conte, nessuna contrapposizione con lui, ma dice serve un salto di qualità. Nicola Zingaretti sferza la maggioranza dopo le polemiche sugli stati generali dell'economia annunciati da Conte per pianificare il rilancio del paese. Con il Premier non ci sono contrasti, ma serve un salto di qualità. Non possiamo sbagliare perché l'Europa ci chiede rigore e piani seri, avverte il segretario del PD. Io credo siamo giunti a un momento davvero cruciale, nel quale si giocano i destini non solo di una legislatura, ma del futuro dell'Italia. Sono pienamente consapevole dei pericoli che ci sono, ma il mio giudizio è fiducioso. Sugli stati generali prosegue il confronto interno, possono essere una buona idea se daranno una mano ad avere una visione strategica, dice il leader di Italia Viva Renzi. Serve subito un confronto serrato, interviene anche il 5 Stelle Crimi, che a 24 mattino esclude rimpasti di governo. Mi sembra che questa squadra di governo abbia gestito al meglio, a differenza di qualche magari consiglio regionale, questa emergenza. Non vedo perché ci debbano essere cambi di squadra. Dall'opposizione torna invece all'attacco Matteo Salvini. Il paese è bloccato, PD e 5 Stelle stacchino la spina al governo e si voti in autunno, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte economico da oggi scatta anche per i professionisti la possibilità di richiedere il bonus da 600 euro per i mancati guadagni nel mese di aprile. Intanto è stato firmato un patto per sostenere l'export italiano. Rilanciare gli scambi internazionali delle imprese italiane, questo è l'obiettivo del patto per l'export, firmato oggi alla Farnesina alla presenza di numerosi ministri e di imprese e associazioni di categorie, per il quale sono stati stanziati 1,4 miliardi di euro. 6 i pilastri per far ripartire le esportazioni: comunicazione, formazione, e-commerce, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata, il ministro degli esteri Di Maio. Oggi il motore del Made in Italy può ricominciare a correre e siamo qui oggi a firmare insieme un vero e proprio patto il patto per l'export, che ci lega a precise responsabilità ed impegno reciproco. Intanto sul fronte degli aiuti economici l'INPS assicura che entro venerdì arriveranno i pagamenti per la cassa integrazione per tutte le 419.000 domande giacenti. Il presidente Pasquale Tridico, in un'intervista a Repubblica, dice di intravedere segnali di ripresa. La richiesta di cassa integrazione è circa il 50% in meno rispetto al mese precedente, spiega un dato in fortissimo calo che ci dice che il paese è finalmente ripartito. Mentre scatta oggi la possibilità per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private di richiedere il bonus da 600 euro per la mensilità di aprile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La applicazione Immuni è già attiva su tutto il territorio, su scala nazionale. Oggi inizia la sperimentazione in 4 regioni, dove parte anche il sistema sanitario. Così oggi la ministra dell'innovazione Paola Pisano. Intanto invece per la cronaca iniziamo con il maltempo che ha colpito il nord e che si sta spostando verso il centro-sud. Numerosi interventi dei pompieri nella notte a causa dei temporali che si sono abbattuti su Genova e nell'entroterra. A Ponte Decimo i vigili del fuoco hanno salvato un uomo che era rimasto bloccato nel garage. In Val Polcevera e Val Bisagno smottamenti, allagamenti e blackout. Pioggia, raffiche di vento e torrenti ingrossati ieri anche in Piemonte, dove la zona particolarmente colpita è stata quella tra i comuni di Moncalieri, Cambiano e Trofanello. Violente grandinate si sono abbattute anche sul Veneto e sulla Bergamasca, dove si registrano forti allagamenti. Forte pioggia a Milano, dove hanno tenuto però i fiumi Lambro e Seveso. Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nelle prossime ore altri acquazzoni, altri temporali torneranno a interessare buona parte del centro-nord, magari fenomeni anche di breve durata ma intensi, scrosci di pioggia particolarmente forti, meglio al sud, ma anche lì con un po' di nuvole, anche lì qualche scroscio di pioggia, soprattutto nelle prossime ore tra Molise e Puglia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono in corso le ricerche di 3 speleologi dispersi al Pian del Tivano, zona nel Comasco. I dispersi fanno parte di una comitiva di 6 persone che ieri ha iniziato l'esplorazione di una grotta. Poco prima delle 11 è scattata la richiesta di soccorso. Sul posto sono presenti adesso il soccorso alpino, il soccorso speleologico, i vigili del fuoco, i carabinieri. E ora ci spostiamo in Sicilia per una operazione. Si infiltravano nel sistema legale dei giochi e delle scommesse sportive per fare affari, ma anche e soprattutto per riciclare denaro sporco. Sentiamo. È un business da almeno 100 milioni di euro all'anno, quello delle scommesse legali su cui avevano messo le mani i boss della mafia a Palermo. Un giro d'affari messo in piedi negli anni che dal capoluogo siciliano arrivava fino alla Lombardia. Grazie all'abilità imprenditoriale e ai vantaggi derivanti dalla vicinanza ai clan, gli indagati hanno acquisito la disponibilità di un numero sempre maggiore di licenze e concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da imprese formalmente intestate a prestanomi compiacenti. Per questo la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Palermo e della Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato 8 persone, mentre altre 2 sono state raggiunte da divieto di dimora nel palermitano e sequestrato preventivamente beni per 40 milioni di euro. I 10 sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravato dal favoreggiamento mafioso. Oggi più che mai, per scovare Cosa Nostra, bisogna seguire il denaro e i flussi finanziari, ha ribadito Gianluca Angelini, comandante del Nucleo Operativo Economico e Finanziario della Guardia di Finanza di Palermo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la bella stagione e la fine del lockdown da coronavirus è probabile che riprendano gli sbarchi di migranti che in realtà non si sono interrotti. È la preoccupazione dei servizi italiani ma anche del Ministero dell'Interno. Per questo i paesi del Mediterraneo, Italia in testa, hanno chiesto a Bruxelles di farsi carico della distribuzione dei migranti e dei rimpatri. I paesi di Visegrad hanno già detto di no alla proposta di ricollocamenti obbligatori dei migranti avanzata dall'Italia. La riforma della politica di asilo europea deve basarsi sul consenso di tutti gli stati membri. Reiteriamo la nostra forte opposizione ai ricollocamenti obbligatori di richiedenti asilo e migranti. Questo è il messaggio principale della lettera inviata alla Commissione europea dai ministri dell'Interno di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, in merito al patto europeo sulla migrazione e l'asilo che l'esecutivo l'esecutivo presenterà nelle prossime settimane. Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna avevano mandato una lettera comune a Bruxelles nella quale si chiedeva l'introduzione di un sistema obbligatorio per il ricollocamento dei migranti. Secondo i servizi segreti italiani, gli sbarchi si intensificheranno nei prossimi mesi. In realtà non si sono mai interrotti. Da inizio anno sono arrivati dal mare 5.400 migranti contro 1.800 dell'anno scorso. Molti sono sbarchi autonomi. Non c'entrano nulla le ONG che in questi mesi non sono state in mare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, la maggioranza del Consiglio Comunale di Minneapolis negli Stati Uniti, la città in cui è morto l'afroamericano George Floyd per mano degli agenti di polizia, ha votato per avviare un processo di riorganizzazione del Dipartimento di Polizia. Intanto il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sarà a Houston nelle prossime ore, dove incontrerà i familiari di George Floyd. E torniamo invece adesso in Italia, dove oggi è l'ultimo giorno di scuola con sciopero. Ripartire insieme, ripartire in sicurezza, centralità della scuola per far crescere il paese. E questo lo slogan dello sciopero generale di tutto il personale della scuola, indetto dai sindacati nell'ultimo giorno di un anno scolastico all'insegna dell'emergenza e della didattica a distanza. Attraverso flash mob, manifestazioni e iniziative in tutta Italia, anche davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma, CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda lamentano il fatto che si facciano proclami sulla centralità dell'istruzione, che poi, sostengono, non vengono seguiti da stanziamenti congrui. Francesco Sinopoli, CGIL Scuola. Si deve rispettare il distanziamento fisico, quindi c'è bisogno di ridurre il numero degli alunni per classe e aumentare gli organici. Abbiamo appreso che la soluzione sono i plexiglass, non ce lo saremmo immaginati, perché altrimenti forse potevano spiegarcelo anche prima. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è anche la settimana della ripartenza del calcio, in attesa della Serie A il 20 giugno. Venerdì si tornerà in campo con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Oggi anche consiglio di FIGC, con decisione attesa sulle norme, ancora una volta il quadro per regolare questo finale inedito di stagione. 13 e 12 minuti è tutto per questa prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco dopo le informazioni sul traffico e i titoli. Ripartiremo dalla giornata mondiale degli oceani. L'imperativo è salvarli dall'inquinamento grazie all'innovazione. Vi racconteremo di un progetto italiano. E poi segnali incoraggianti che arrivano per il turismo dal litorale amato dai tedeschi, cioè da Jesolo. 349-238-6666. Ci risentiamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. PIL in calo dell'8,3% quest'anno, la stima dell'Istat che vede una parziale ripresa del 4% l'anno prossimo. Governo verso gli stati generali dell'economia, interviene Zingaretti, nessuna contrapposizione con Conte, ma serve un salto di qualità. Scuola oggi ultimo giorno, docenti in sciopero chiedono certezza sui precari. Salvare gli oceani con l'innovazione, il tema della giornata mondiale degli oceani che si celebra oggi, ne riparliamo tra poco. Primo fine settimana di turismo per italiani ed europei, 8.000 visitatori agli Uffizi, arrivi stranieri incoraggianti anche sul litorale di Jesolo. e 15 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, come avete sentito, ci occupiamo della giornata mondiale degli oceani. E con noi il professore di chimica all'Università di Pisa, Walter Castelvetro. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, in questa giornata il tema guida è l'innovazione per un oceano sostenibile, un oceano anche meno inquinato. Pochi giorni fa c'è stato un ennesimo disastro ambientale, vorrei partire da qua, in Siberia, dove a causa di un cedimento ad una centrale elettrica oltre 20.000 tonnellate di gasolio si sono riversate a poche decine di chilometri dal Mar Glaciale Artico nel Circolo Polare Artico. L'altro grande problema che conosciamo tutti è quello delle microplastiche, un tema su cui c'è anche un progetto che la riguarda ed è il motivo per cui le abbiamo chiesto di essere qua oggi, professore. Però le voglio chiedere proprio su questo, no? Questo tema di percezione dei problemi e anche di una realtà dei problemi. Qual è la fonte di inquinamento che deve preoccuparci di più? Disastri enormi come quello avvenuto in Siberia oppure più invisibile e meno eclatante, ma ormai conosciuto, il tema delle microplastiche negli oceani? Disastri o comunque eventi catastrofici tipo quello appunto che ha citato dell'incidente in Siberia sono chiaramente molto gravi, però in genere hanno una rilevanza relativamente locale, no? Quindi in quel caso locale per modo di dire, perché poi se l'incidente si riflette poi su tutto il reticolo fluviale e arriva fino al mare e quindi fa dei danni molto, molto gravi, però comunque confinati in un ambito geografico relativamente limitato. Il discorso delle materie plastiche, in particolare poi delle microplastiche, che sono ormai presenti dappertutto nei sistemi acquatici naturali, è un discorso molto diverso, nel senso che le implicazioni per quanto riguarda il danno ambientale in realtà non è vero che sono così tanto note o tanto chiare. Sì, ci sono chiaramente delle evidenze che il problema si può ripercuotere sugli organismi viventi e eventualmente successivamente anche nella catena alimentare, però non è che sia così chiaro quale e quanto sia il danno. Si sta studiando, sì, esatto, questi infatti progetti che sono adesso stati lanciati negli ultimi anni riguardano innanzitutto la conoscenza, cioè nel caso del progetto di cui mi occuperò si tratta di mettere a punto metodologie per mappare, per analizzare, per quantificare la presenza di queste microplastiche. Sì, io quando ho detto, professore, mi scusi se la interrompo, quando ho detto che sono anche il fatto della plastica nei mari un tema conosciuto, mi riferivo più che altro al fatto che è un tema che ormai è entrato un po' nella coscienza come elemento di preoccupazione. Quanto poi a conoscerlo veramente, realmente, è tutto un altro paio di maniche. E qui arrivano infatti progetti come quello in cui siete coinvolti voi dell'Università di Pisa. Ci vuole spiegare in che termini consista anche l'innovazione di un progetto come il vostro che, se ho capito bene, con finanziamenti europei mira a cercare di monitorare, di capire qualche cosa di più su come funziona l'inquinamento delle, credo in particolare, delle microplastiche negli oceani, è così? Sì, certo, ma il progetto fa parte di un programma che ha finanziato, un programma internazionale a cui partecipano diversi stati europei, che ha finanziato una prima tornata di progetti 4 anni fa. Sono stati 4 progetti che sono stati finanziati che riguardavano proprio le microplastiche e quindi metodi di analisi, misurazioni, interazioni con gli organismi viventi, distribuzione, modellazione un po' della distribuzione in mare. Questa è una seconda tornata di progetti, sono stati finanziati 6 progetti per un totale di una 40 milioni di euro, mi sembra. Il progetto a cui partecipo io è un progetto che ha un coordinatore tedesco, che è un istituto oceanografico importante in Germania, loro hanno proprio anche le navi oceanografiche, abbiamo già fatto 2, anche se il progetto è partito proprio in questi giorni. Sì, stato, sì. La settimana scorsa abbiamo fatto la prima riunione telematica. Ecco, ma se riesce un po' a spiegarci in termini semplici, immagino certo, che non sia semplice, però cosa consiste? 2 campagne oceanografiche, cioè delle navi oceanografiche hanno fatto dei percorsi, uno a largo nel Rigio Oceanico, quindi una zona di frattura in grande profondità, calando dei sistemi di campionamento, e si campionano i sedimenti di fontane e poi l'acqua a metà, quella che si chiama la colonna d'acqua, quindi il campione di acqua a metà altezza, l'acqua e tutto quello che c'è dentro, e sulla superficie. Si fanno diverse zone di campione, si mappa sostanzialmente la zona atlantica profonda e poi una seconda nave ha fatto un percorso lungo le coste dalla Spagna su fino alla Danimarca per seguire anche l'effetto nelle zone dove ci sono gli estuari, perché i fiumi sono tra i maggiori apportatori di materiale plastico negli oceani. Certo, perché questa è la domanda, no, che tutti si fanno: come ci finisce la plastica negli oceani? Lei in pratica in parte ci ha già risposto, attraverso i fiumi, ma più in generale, in attesa naturalmente anche dei risultati di questo progetto che è partito adesso, di cui chiaramente è troppo presto per dare risultati, però per quello che si sa di questa materia fino ad oggi, la causa principale di questo inquinamento di plastica negli oceani qual è? Sono comunque l'uso delle plastiche, bottiglie, sacchetti, oppure cose che derivano da un uso industriale? Qual è la prima fonte? È diversificato, diversificato. Si trova, noi siamo andati a fare un campionamento, io ho anche un progetto qui, diciamo, regionale, e siamo andati a fare proprio un campionamento qui sulle spiagge nel nord della Toscana, e si trovano anche dei pellet, cioè dei piccoli granuli di plastica che derivano dalle aziende che disperdono un po' di materiale, alle aziende che trasformano la plastica. Però il grosso dei materiali sono sostanzialmente i sacchetti, le bottiglie, e poi in realtà c'è anche un'altra forma di inquinamento un po' più nascosta, se vogliamo, che negli ultimi anni recentemente se ne sta parlando, e infatti noi stiamo lavorando anche su questo specificamente, che sono le fibre tessili. Le fibre tessili che attraverso i lavaggi, credo in lavatrice poi finiscono negli scarichi. E quelle sono fibre sintetiche in gran parte, e quindi chiaramente anche quelle lì sono già microscopiche, quindi vengono veicolate anche lontano dalla zona di emissione, perché sono molto, molto fini, quindi però sono anche quelle possono creare chiaramente da quello problemi. Che si poi capisce, ci sono altri problemi che ancora non sono stati studiati, perché sono ancora più complessi, che riguardano probabilmente un probabile inquinamento derivante da le gomme che vengono additivate negli asfalti e che possono e anche quelle che vengono abrase dagli pneumatici, che vanno in parte a finire nei corsi d'acqua e quindi poi possono arrivare al mare. Quindi ci sono diverse altre fonti di inquinamento che potrebbero esserci che potrebbero determinare un inquinamento non trascurabile di mare, ma che sono ancora più complicate da analizzare, se vogliamo. Quindi si stanno mettendo a punto metodologie per le analisi che siano sufficientemente accurate, questo è quello che io faccio in particolare nel mio contributo, al progetto, e poi c'è chi fa anche modellazione per vedere come le correnti oceaniche, i flussi, moti ondosi e tutti questi fenomeni macroscopici possono poi determinare per esempio degli accumuli. Si è visto che le macroplastiche, cioè gli oggetti che sono visibili per esempio, si accumulano molto in certe zone, anche nella zona del Tirreno per esempio, al nord dell'isola d'Elba sono delle correnti, no? Si accumula la materia plastica, che invece nella parte sud dell'isola d'Elba è praticamente assente o quasi. Queste isole di plastica di cui si parla, che non sono delle vere e proprie isole in realtà, in genere sono semplicemente delle zone di maggiore accumulo, ma magari non si vede neanche tanto bene, sono frammenti piccoli, sono presenti anche nel Mediterraneo, anzi il Mediterraneo purtroppo è un mare particolarmente inquinato da questo punto di vista, perché chiaramente essendo un mare chiuso non ha modo di disperdere la materia plastica come succede invece negli oceani. La ringrazio, professor Walter Castelvetro, grazie per essere stato con noi, professore di chimica all'Università di Pisa, l'unico partner italiano di questo progetto europeo HOTMIC, che si occupa di monitorare quanta plastica c'è negli oceani, e in attesa di capire quanta plastica c'è negli oceani ricordiamoci anche di cercare di farcene finire il meno possibile. Va bene, adesso invece notizie un pochino più incoraggianti, perché vogliamo parlare di turismo, di segnali positivi tutto sommato che arrivano da questo che è stato il primo fine settimana di ritrovata libertà degli italiani di spostarsi tra una regione all'altra, ma ricordiamocelo anche di arrivare da fuori Italia. Ne parliamo con Antonio Vigolo, che è titolare dell'Hotel Cavalieri Palace di Jesolo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. E allora, com'è andata questo primo fine settimana, nel quale lei ha fatto anche parlare per l'arrivo non solo di turisti stranieri, ma in particolare, poi ce la racconterà, anche di una coppia, se ho capito bene, austriaca, che ha fatto, diciamo così, sollevato un po' di polemiche, perché l'Austria non prevede un passaggio diretto, prevede una quarantena con l'Italia. Sappiamo che le frontiere non sono state ancora riaperte completamente, e questo è un tema che ha fatto anche un po' discutere. Però intanto le chiedo, Vigolo, com'è andato questo fine settimana? Uno poteva anche immaginare che non arrivasse nessuno da oltre frontiere, invece noi ci abbiamo creduto. Abbiamo creduto e abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo deciso per il fine settimana precedente di aprire la nostra struttura per i soli 20, perché tali solo potevano arrivare, certo, a Jesolo. E il messaggio già è stato incoraggiante, perché abbiamo avuto l'hotel al completo, quindi la voglia di mare c'era. E l'apertura ci ha permesso anche di trasmettere un messaggio alla nostra clientela, anche straniera, che è la prevalenza. Che eravamo pronti. E poi sono arrivati effettivamente questo fine settimana. Quindi abbiamo avuto proprio una conferma della fidelizzazione di questa clientela. Mi dice, più o meno, facendo una scala, non so lei quanti posti letti ha lei nel suo albergo, quanti è riuscito a riempirne, quanti erano stranieri questo fine settimana? Noi abbiamo avuto un'occupazione del 70% questo fine settimana. Su 100 letti ne abbiamo occupati una settantina, di cui la metà erano di origine tedesca. E appunto questi due austriaci di cui lei menzionava poc'anzi, che vorrei però precisare, non è che abbiano trasgredito le regole imposte dal loro governo, perché loro sono di Salisburgo, però la fidanzata abita a Monaco di Baviera, per cui adesso nel ritorno sono transitati a casa, dalla Germania? Sì, sono passati dalla Germania alla Svizzera e il ritorno l'hanno fatto inverso, però attualmente questa coppia di clienti amici si trova a Monaco di Baviera, dove la quarantena non è prevista. Va bene. Risolviamo così anche questa sorta di querelle pseudo diplomatica, sì, che in realtà è stata più che altro quasi un divertissement, non è nato nessun reale problema con l'Austria. Invece, per il futuro, a questo punto della stagione, dopo questo fine settimana da cui sono arrivati segnali comunque, insomma, incoraggianti, che potevano anche non esserci, perché potevano anche non arrivare questi tedeschi da oltre frontiera per fare un salto, venire in Italia, in una zona che è stata colpita dal Covid, non in particolare Jesolo, ma insomma l'Italia e il Veneto, invece questo è avvenuto. A questo punto lei è un po' più ottimista per il futuro? Si immagina una stagione, non dico normale, ma quasi? Beh, se fosse normale sarei troppo ottimista. Confido che anche questi messaggi positivi che stanno passando, e poi avendo dei feedback di questi giorni da tanti clienti stranieri che ci stanno anche chiamando, io confido in una pseudo normalità. Quindi se le previsioni a livello anche nazionale, non solo di Jesolo, della Costa Veneta, si aggiravano al 30-40% di occupazione, e questo ci vuole quel coraggio che le dicevo di aprire un'attività, attualmente io confido di arrivare al 60-70% della nostra abituale occupazione, e questo sarebbe già un grande risultato per noi. Io la ringrazio, il titolare del Palace Hotel, Cavalieri Palace di Jesolo, grazie per essere stato con noi, grazie anche per averci dato questi segnali così di ottimismo, di incoraggiamento. Abbiamo scelto lui tra i tanti perché c'era la storia di questa coppia di austriaci che aveva fatto un po' discutere, che era finita sui giornali. Comunque un 70% di occupazione delle camere in questo hotel, in questo primo fine settimana, fa sicuramente sperare in qualche cosa di positivo per quest'estate. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torniamo dopo la pubblicità e la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. PIL in calo quest'anno dell'8,3%, la stima dell'Istat, parziale ripresa del 4% l'anno prossimo. Governo intanto verso gli stati generali dell'economia, interviene Zingaretti, nessuna contrapposizione con Conte, serve un salto di qualità. Scuola oggi ultimo giorno, docenti in sciopero chiedono certezza sui precari. Minneapolis smantellato il dipartimento di polizia dopo la morte di George Floyd. Salvare gli oceani con l'innovazione è il tema della giornata mondiale degli oceani che si celebra oggi. Il punto di Alberto Orioli. Spesso si è detto che i governi facevano le cose e non sapevano comunicarle e di questo pagavano un prezzo alle urne. Ora però la sensazione è che il Premier Conte abbia ansia di comunicare anche ciò che non fa. Il caso degli Stati Generali è emblematico, un annuncio magniloquente di una convention, stile rivoluzione francese, con cui raccogliere le idee per il rilancio del paese. O meglio un palco, stile Leopolda, con una rassegna, oltre che dei leader di una quarantina di sigle delle parti sociali, anche delle famose menti brillanti, da Fuchs a Saboeri, da Renzo Piano a Farinetti. Le idee, lo sappiamo, sono note e da tempo ai vari ministri e ai vari ministeri, per non parlare delle tante task force che già di loro di progetti hanno i cassetti pieni. Digitalizzazione, sburocratizzazione, infrastrutture, svolta green, riforma scolastica per valorizzare le competenze e poteva mancare un fisco più equo e senza evasione. Le avete già sentite, ma certo le sentirete ancora, con la differenza che saranno rilanciate in favore di telecamera dai magnifici saloni di Villa Pamphili. Se poi fuori, tra il detto e il fatto, rimane un oceano di frustrazione, pazienza.